chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Ecco, ma è possibile che dobbiamo iniziare sempre sganasciandoci? Ma magari sì, è meglio. C'è poco da ridere oggi, c'è poco da ridere. Come c'è poco da ridere? Chiedimi se sono felice, seriamente chiedimelo. No, scusa Rosita, ma sei felice? No, uso il pugliese per due motivi. Uno perché voglio essere serio. E due perché sei di Bari veramente. Eh no, ma tu vuoi mettere mo in vacanza quante persone sono andate in Puglia? Allora là sono tutti felici loro, allora mo ti chiedo a te, io a te, tu sei felice? Sono felice? Sono Rosita. Ti è piaciuta? No, allora, a parte gli scherzi, io vorrei fare come Mafalda. È proprio obbligatorio fare la prova costume. Cioè, no, scusami, non si può fare la prova costume orale? Orale? Guarda, te la spiego dopo. Possibile che io una volta, tanti anni fa, quando ero prima dei 40, un chilo lo buttavo giù al giorno, adesso un chilo neanche con la martellata in no, un mese, non mangio, mangio poco, la Nutella l'ho ridotta proprio al minimo. È vero. Sì, a un barattolo al giorno. No, beh, no, quello tu. No, adesso io sono seria, giuro, mi viene da ridere perché che cosa devo fare? Non mi posso sparare, ma c'ho quel gonfiore che non se ne va. Guarda, è una questione ormonale. Ma sì. Sai quando si dice facciamo movimento perché il movimento fa bene? La maggior parte delle persone sono convinte che fare movimento significa bruciare calorie ed è per quello che devono muoversi. Non è vero. Ah no? No, non è vero. Perché quello che fa bene, cioè il movimento fa bene perché cambia la condizione ormonale. Cioè il corpo processa il cibo in un modo diverso. Invece di trasformarlo in grassi, lo trasforma in massa magra. Veramente, uno lo chiama come esperto dei cani e sa meglio. Pensa un po'. È anche esperto di che cosa abbiamo parlato adesso. Vabbè, insomma, a parte questo, ma questo vale anche per i cani. Vale, quindi... Io lo so per questo motivo qui. E quindi uno si deve tenere in forma muovendosi, non io soltanto mangiando. Io faccio Pilates, faccio body rolling. Tutte cose che non sono attività aerobiche. Guardo un sacco di film in televisione. No, no, io faccio un sacco di roba, non sto un attimo ferma, faccio la spesa, porto i pacchi pesanti, carico e scarico cani, tira sui cani, tira giù i cani. Te devi fare almeno una mezz'oretta al giorno di attività aerobiche. La facciamo, ma non al giorno. La condizione ormonale. Tu sei serio, hai detto questa cosa. Sì, adesso sì. Ti prendo in parola, vediamo a fine di luglio, a metà agosto, in che condizioni sto. No, mi vedete in costume. Allora, ti ricordi quando siamo andati ad ascoltare Berrino, il professor Berrino? Sì. C'era un esperto lì che parlava di fitness. Beh, lui diceva che una delle condizioni per mantenersi in forma è fare delle lunghe passeggiate. Chi ha il cane, sotto questo punto di vista, è spesso avvantaggiato. Diceva che le tre cose per vivere bene, sani, senza ammalarsi a lungo erano l'alimentazione, il movimento e la meditazione. E la meditazione. Io ci sono quasi, dai. E beh, i cani ti fanno sia meditare che muovere. Ma parlando appunto di movimento, c'è un cruccio di chi ha il cane, perché dice io esco con il cane, poi dopo devo anche uscire a correre. E se noi invece provassimo a fonderle queste due attività? Perché no? Allora, abbiamo in linea un esperto, Aldo Laspina, istruttore cinofilo, autore del libro In forma con il cane. E andiamo a chiedere a lui, ovviamente. E chiediamoglielo, come si fa a tenersi in forma col cane? Ciao Aldo! Ciao Aldo Laspina. A voi e agli ascoltatori. Grazie. Quindi, insomma, se uno si vuole tenere in forma con il proprio cane, che cosa può fare? Cosa ci consigli? Dimentichiamo che abbiamo in casa un allenatore gratis. Esatto. Difatti io sono in forma proprio per questo, perché ho due allenatori. E poi scusa, adesso vorrei dirvi una cosa che vi giuro mi è venuta in mente mentre abbiamo iniziato la chiacchierata, ma raramente vedi delle persone in sovrappeso col cane. Un po' meno magari. Facci caso. Stavo cercando di far mente locale. Perché il cane ti obbliga ad uscire, che tu stia bene o male, che ci sia pioggia, cioè ogni giorno esci con il tuo cane. Però puoi trasformare anche questa passeggiata in qualcosa di ancora più, come si può dire, allenante. Sì, anche costruttivo, naturalmente nel rispetto della razza, del peso, delle condizioni. Quindi dobbiamo uscire con un'idea di fare un qualcosa di costruttivo. Una camminata può essere fatta anche con un preciso programma, con un preciso allenamento, così la corsa o così il nuoto, senza andare a correre così, senza un'idea dei tempi, delle fermate, dei riposi. Possiamo farci anche un programma proprio come andiamo in palestra. C'è proprio una tabella, io esco col cane, faccio un tot minuti di corsa con il mio cane, poi mi fermo. E ovviamente la tabella viene strutturata sia per il cane che per il proprietario? Beh, sicuramente è tutto proporzionato, per cui se siamo noi molto allenati dovremmo fare qualcosa di progressivo o viceversa. Se abbiamo l'evero dovremmo stare attenti. Te voglio vedere. Io l'avevo. Quando lo sganciavo, era l'unico cane che lasciavo volentieri e non avevo paura che gli altri cani lo aggredissero perché non lo pigliavano. Cioè, ma è vero, veramente, non lo prendevano proprio. Lì sta in forma. Ecco, non sottovalutiamo neanche i cani piccoli. Io sono Rosita che hai i cani piccoli, sì. Per cui loro hanno bisogno di movimento, però ovviamente proporzionato. Infatti è proporzionato alla loro. Senti, è Angelo che li vorrebbe far. Senti, ma se fa caldo e uno ha voglia di farsi un tuffo? Ottimo, naturalmente attenzione alla temperatura dell'acqua, attenzione che il cane ha difficoltà non soltanto a entrare ma soprattutto a uscire, per cui dobbiamo pensare che sia importante trovare un posto giusto, idoneo per l'entrata e l'uscita. Certo. Io ricordo a tutti che se un cane verticalizza rischia di affogare, qualche cane è anche affogato per questo. Dio poverino, ma scusa, ma un'altra cosa, ma è vero che i bassotti perché sono lunghi e corti invece non sanno nuotare? Dunque, hanno un assetto incredibile, quindi sono dei turaccioli, galleggiano molto bene, con le loro zampettine, è un po' come dei sommergibili, no? Presente, quando non è vero bene, che... Quindi... vanno, però hanno difficoltà per esempio ad andare sott'acqua, e a differenza di altri cani, ci sono gli sport acquatici, per esempio c'è il recupero di oggetti sommersi, il cane cambia totalmente assetto quando va sott'acqua a recuperare un oggetto. Fermati lì Aldo, ci troviamo tra poco. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Ci sarà la gente che è in macchina, che si sposta in questo weekend per tornare. Meno male, per loro, vacanze che vanno, vacanze che vengono, esatto. Mi raccomando, tenetevi sempre un po' d'acqua fresca in macchina quando viaggiate, maggior ragione se ci sono anche i cani che magari soffrono un pochino di più il caldo di noi. Giustissimo, grazie Rosita. Poi, tra l'altro, l'acqua si può utilizzare per fare sport col cane, come ne parlavamo prima con Aldo La Spina, che ci spiegava che addirittura i cani si tuffano e vanno a recuperare oggetti sott'acqua. Esatto. Ma Aldo, quanti sono gli sport che si possono fare in acqua col cane? Naturalmente, allora, c'è il riporto in superficie dove il cane riporta nel tempo oggetti e chi è bravo, il più bravo è quello che ne porta di più, oppure sono oggetti che piano piano affondano e questo lo possiamo stabilire noi. Sicuramente non deve andare più sotto di un metro e mezzo, due metri, perché poi ci sono problemi di compensazione. Quindi non soltanto il cane è in grado di andare sott'acqua e recuperare oggetti, ma ci sono addirittura delle gare. Beh, cosa succede? Chi fa prima? Chi ne prende di più? Chi va più a fondo? Come funziona? Esattamente, cioè è il recupero di un oggetto sott'acqua e quindi quanti oggetti riesce a recuperare e portare a riva. È un impegno, perché naturalmente il cane, ricordate che ha una respirazione diversa dalla nostra, deve imparare a tenere gli occhi aperti, ha una visione distorta come noi sott'acqua, per cui sbaglia mira. Quando apre la bocca, un po' come uno squalo, perde il punto dov'è l'oggetto. Sì. No? Ah, perché lo squalo quando apre la bocca perde l'orientamento? Dicono che chiuda gli occhi, mi sembra che ci sia una ripresa in proposito, e il cane, aprendo la bocca, non vede più a 10 centimetri dov'è l'oggetto. Tu, io però ho visto la tua piscina dove si possono fare, dove ci si può divertire, i privati si possono divertire col cane. Con trampolino, nuoto controcorrente, sì, tante solo cose. Che il cane distinto la teme l'acqua o ha l'istinto di entrarci? È soggettivo anche quello o c'è una... Ma guarda, noi abbiamo dei Labrador che sono spaventati dall'acqua, quindi tutti la devono conoscere, soprattutto la piscina per loro è una grande ciotola, un grande contenitore, certo. A differenza del mare e del lago. Quindi come i bambini si impara a nuotare in piscina, si impara a galleggiare, lo stile, entrare, uscire, quindi in piscina si imparano delle cose, al mare ci si diverte. Senti, invece io volevo spezzare una lancia su quelli che in bicicletta sulla schiena. Esatto, quelli che io vedo in città, che ti assicuro veramente gli taglierei i raggi delle ruote delle biciclette, che trascinano il cane, ma no, indipendentemente d'estate o d'inverno, proprio io vedo i cani rantolare dietro col guinzaglio che li corrono dietro, a parte il pericolo che non li prenda una macchina, passano in croci, poi che caschino loro, ma io questi pensano di fare attività e di farla fare al cane, ma non si rendono conto che stanno facendo tutta una roba sbagliata, giusto? Esattamente, è molto comodo per noi, però non possiamo dosare e riconoscere la stanchezza del cane, perché non siamo stanchi noi, o perlomeno lo siamo molto meno, e lui invece lo è molto di più. Ricordo a tutti, anche agli ascoltatori, che è vietato, ecco, appunto, dalla, codice della codice strada. Della strada, in teoria non possiamo neanche tenere un ombrello, dobbiamo avere tutte e due le mani sul manubrio. E, certo, potremmo anche legare il cane alla bicicletta, ci sono degli strumenti che vendono, per cui in questo caso il codice della strada, però possiamo farlo su strade, come dire, bianche di campagna. E soprattutto non tirare il cane quando non ha voglia. Ma poi sai qual è l'altra cosa che io vedo spesso? La corsa col cane, con un cane che non ha voglia, cioè nel senso che il cane normalmente non ha voglia di stare un pochino più libero, a volte uno lo tiene al guinzaglio, anche quando il cane non è allenato, non c'ha voglia, se lo strattona. Mi è capitato proprio l'altro giorno sull'AD un tizio che strattonava in continuazione un Tervuren, un pastore belga Tervuren, lo obbligava a seguirlo e questo non c'aveva voglia. Vabbè, facciamo così, d'ora in poi io li fotograferò, questi ciclisti, visto che i social network servono a questo, e chiunque vede un ciclista che trascina il cane in città con il guinzaglio mi mandi una foto attraverso i miei social, così magari li mandiamo ai vigili. Siete contenti? Ascoltatori, siete contenti? Senti Aldo, grazie mille. Grazie per la tua testimonianza. Grazie a voi. Eccoci, adesso arriviamo in questa rubrichina che io adoro, le mitiche supposte di saggezza. Con questa, come si dice? Madonna ragazzi, ma l'età è una tragedia, non mi sgonfio facilmente, non mi vengono le parole. Gli ormoni. Ho capito, gli ormoni, ci sono pillole di ormoni da mangiare, no? Le nostre pillole di saggezza, oggi si parla di strade sporche, di persone che vanno in giro col proprio cane e hanno la cattivissima abitudine di non tirare su. Detesto. La popò del cane. Detesto perché noi amiamo i cani, dobbiamo andarcene in giro, però attenzione, bisogna sollevare le deiezioni dei cani, perché altrimenti non andiamo d'accordo, non andate d'accordo neanche con Angelo Vail. Deiezioni sarebbe la cacca, però. Sarebbe la cacca. Perché io su deiezioni tempo fa avrei detto che cos'è? C'era il professore di un mio amico che diceva che a Bari si svegliava al mattino e faceva uno sport che era lo slalom Madonna. Tra le cacche dei cani. Dai ragazzi, no, veramente. Non si può, ma poi tra l'altro basterebbe, è facile, cioè si infila la mano in un sacchettino di plastica, si tira su, si chiude e si butta, non è che ci vuole nulla. Sì, poi c'è il pigro che ti dice: ma il sacchettino non ce l'ho, li avevo finiti, non l'ho comperato e non so dove ma si trova. Ma pensa, c'è anche quello che si vergogna. Ma sì, tu devi vergognare? Che gli fa schifo. Pensare che gli fa schifo. A me fa schifo lui che non la tira su. Esatto, e dovrebbe vergognarsi perché non la tira su. Esatto, si vergognerà? Ma spero proprio di sì d'ora in poi. Adesso se no, sai cosa facciamo? Adesso che ci sono cellulari, cose, facciamo una fotografia. Voi che ci ascoltate, tutti quelli che trovate per strada che vedete che fanno, anzi un filmino si può registrare, li riprendete chiane chiane senza farvi sentire, poi mandatecela qui. Adesso non so se può mandare via mail, però intanto voglio cogliere l'occasione per darvi di nuovo il nostro indirizzo email, che è chiedimi se sono felice @radio24.it, 24 scritto in numero, perché così noi possiamo poi rispondervi, comunicare. Mandateci filmati di tutti gli zozzoni che portano in giro il cane, allungano il guinzaglio, si girano anche di spalle mentre il cane fa poverino, anche il cane si vergogna del padrone stesso. Detto ciò, a noi appunto aveva colpito una mail di Franca da Sanremo, che dice: sono Franca, vivo a Sanremo, cammino molto, ma in questa sporchissima città con tanti escrementi che i padroni dei cani non raccolgono, si cammina a testa bassa per non pestarle. Ti cioè pensa a te, Sanremo, città dei fiori, ti fa venire in mente il profumo e invece è piena di cacca. Franca, ci sei? Sì. Ciao Franca. A noi ha colpito molto questo messaggio perché intanto condividiamo pienamente la maleducazione e l'inciviltà è di noi esseri umani, insomma, non dell'animale, Sanremo, poverino. Città dei fiori. Anche perché la città di Sanremo è conosciuta e vista da tutti in occasione del festival. Mentre tutto il resto non lo fanno mai vedere, mai nessuno reclama, sono le persone che vengono da fuori, come me, che sono lombarda, sono abituata a camminare nel verde e nel pulito. Sì, mentre certo. Qui, che la chiamano città dei fiori, non è assolutamente vero che ci sono fiori dappertutto, ci sono topi deiezioni dei cani, ecco, ovunque. È la cosa che a noi interessa, perché noi vogliamo proprio dare una strigliata a chi lascia le cacche dei cani per terra, perché lei ci diceva che a Sanremo è pieno. Io ho passato diversi anni a fare le fotografie e mandare mail e portare lettere personalmente in comune. Risultati? Risultati quando era cambiata l'amministrazione, nel 2010 mi pare, adesso non ricordo bene, non ho qui le carte sotto mano perché io tengo tutto. Ammazza Franca, precisissima, è una donna precisissima. Sì, perché io se no non avrei potuto svolgere la mia professione quando lavoravo, e quindi ero apprezzata proprio per questo. Franca, ma non è mai capitato di incontrare qualcuno che non la raccogliesse, di dire a questa persona, sì, ho incontrato un ragazzo giovane che mi ha risposto di raccogliermela io. Ma Franca, tu come gliel'avevi detto? Gliel'avevi detto magari in un modo? Gli avevo detto, scusi, ma le pare che chi cammina a piedi debba per forza pestare lo sporco del suo cane? No, vabbè, no? non si può. E lui mi ha risposto, lo raccolga lei, signora. Franca, grazie di questa sua testimonianza. Speriamo, adesso cerchiamo noi di attraverso la radio di sensibilizzare un po'. Un'altra signora invece già di una certa età, su corso inglesi, io ho il piede, il passo felpato, per cui la curavo da dietro e al momento che mi ha visto ha fatto finta di frugarsi nelle tasche, allora porgendole un fazzoletto di carta io le avevo detto, signora, se prima di uscire di casa non mette il sacchettino in tasca non lo trova può cercare. Quando io le sono alle spalle. Franca, ma lei mai hai avuto un cane? Con passo felpato. Io ho avuto un gatto per più di 20 anni, ce lo siamo portati avanti da Milano prima, Sanremo dopo, da Varese dopo e qui a Sanremo. Adesso sempre. Mi va a finire che siccome le persone non raccolgono le cacche per terra e fanno male, vedi, delle persone come la signora Franca poi magari pensano al cane e ci pensano magari non... No, Franca, facciamo una cosa, lei continui a controllarle con passo felpato e se vede che non tirano sulla cacca continua a bacchettarle perché se lo meritano. Grazie di questa testimonianza, Franca. Grazie a voi e spero appunto che sensibilizziate un po' i proprietari dei cani, certo, e di avere rispetto anche per i cristiani. Assolutamente sì, grazie, buona giornata. Perché a me vengono le rughe a stare bassa col mento, a guardare. Invece voglio tenere il collo alto. Vengono le rughe, comunque Franca lei è molto simpatica, perché ha già detto due te, le vengono le rughe, sta con la testa chinata, va con passo felpato dietro i padroni dei cani. Io la prenderei a fare l'investigatore privato. Ma io ho chiesto di dare al comune di darmi una fascetta di riconoscimento. Fantastica Franca. No, io voglio un esercito. Allora Franca, lei poi diventerà il colonnello generale delle nostre armate che vanno in giro a... Ma il comune non gliel'ha data la fascetta per andare? No, guarda, chiamiamo il sindaco di Sanremo, io voglio la fascetta. Ma possiamo provare a chiamare il sindaco di Sanremo. Guarda Franca, facciamo così, io non ti prometto niente, tengo il tuo numero in memoria, vedo se riesco a rintracciare il sindaco di Sanremo, proviamoci, vediamo che cosa ci dice, e vediamo se riusciamo a farti avere la fascetta per ecco, bravi, diteglielo che non esiste solo via Matteotti a Sanremo. Brava, ciao Franca. Grazie Franca. Grazie, buon weekend. Ciao. Buona giornata. Grazie. Buon weekend Franca, buon weekend. Io ogni tanto mi si inceppa per e non finisco le parole. Franca, simpatici, io voglio più Franca in giro per il mondo. Pensavo la volessi qui a fare il programma al posto anche, mio. No, quello no, mai. Non permetterei. Segnati Celentano questa cosa di chiamare il sindaco di Sanremo, perché veramente voglio farci due. Prendiamo le distanze come la Maionchi che chiama sempre Mara Maionchi, chiama il marito Salerno quando gli ho chiesto: ma perché lo chiami per il cognome? Siamo mica parenti noi, eh. Approfittiamo allora per ricordare anche la nostra mail, chiedimi se sono felice, @radio24.it. Salutiamo la Maionchi che le voglio bene. E ciao, detto Mara. Ciò. E detto ciò, ci diamo appuntamento al blocco. La tragedia, ragazzi. A dopo. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. perché gli animali ci... No, vabbè, ma oggi non ce la può fare. Perché gli animali entrano nella nostra vita? Per un sacco di motivi. Per un sacco di motivi. Lo chiediamo ad un esperto, che dici? Assolutamente sì, abbiamo al telefono una persona davvero speciale, perché ha scritto un libro veramente bello che si intitola Tenersi per zampa fino alla fine, e stiamo parlando di Stefano Cattinelli. Stefano, ci sei? Sì, ciao, vi sento, sì, ciao. Ciao, ciao Stefano. Senti, la tematica di cui che trattiamo con te è veramente a me piace molto, insomma, perché è un modo diverso di raccontare quello che può essere il rapporto fra un animale e noi uomini, no? Sì, sì, sì, io sono veterinario, vengo tirato dentro in praticamente la relazione fra uomo e animale, sì. Oggettivamente, no? Sì. Quindi, però Stefano è una persona molto è un veterinario molto speciale, perché mm-hmm. è tanto empatico, emotivo, entra nella relazione, e tanto che la domanda che noi vogliamo farti, Stefano, è perché il cane entra nella nostra vita? Perché uno dice adesso prendo un cane perché sento la mancanza, vorrei dargli una vita migliore, poi sì. scopre qualcosa standoci assieme. Un vuoto. Diciamo che la relazione fra uomo e animale si è evoluta tantissimo nel tempo. La relazione è passata più su un piano emotivo, emozionale, quindi l'animale diventa qualcosa di qualcuno, un essere, un altro, no? Componente della famiglia in tutti i sensi, no? Sì, un altro componente che di difficile così definizione. Sì, perché quando si dice vabbè, non è da caccia, non è da guardia, non è da, allora è un cane da compagnia, però da compagnia è riduttivo. Sì, è estremamente riduttivo. Io, diciamo, nel tempo ho capito che l'animale ha una funzione proprio di crescita, uh-huh. di crescita nella relazione che la persona, cioè, ci vive consente con di crescere, di evolvere come sì. individui. Sì, sì, al 100%. E sicuramente aumenta la nostra sensibilità verso il prossimo, no? Sì, verso il prossimo, ma sai, la relazione che noi instauriamo è esclusivamente di tipo emozionale, quindi l'animale ci muove il nostro mondo emozionale, per dire, non so, ho avuto una giornata difficile, ho avuto una giornata uh-huh. stressante, mi sono arrabbiato, ho litigato con una persona, o così, arrivo a casa e trovo l'animale che mi viene incontro e mi fa le feste, il gatto che si struscia sulle mie gambe, sì, mi fa ti le fa fuga. Passare un po' tutta la giornataccia fatta, io di fatto lo dico sempre, rientrare in casa e non avere questa accoglienza meravigliosa di questi esseri che ti scodinzano, ti sleccacciano dappertutto, che saltano, ti portano il giochino, vogliono giocare, è un rientro a casa silenzioso, sarebbe anche un pochino cupo. Sì, sì, e cambiano poi in un attimo la nostra percezione della realtà, perché i problemi che abbiamo affrontato durante la giornata nella relazione con il nostro animale in un attimo spariscono. Cioè, hanno questa capacità di spostare proprio il piano dell'esperienza interiore nostra in maniera proprio radicale e ancorarlo poi su una leggerezza, su una gioia, su una spensieratezza. Ci puoi raccontare una storia, un esempio di cose che ti sono capitate? So che tu sei un esperto anche dell'accompagnamento degli animali morenti, no? Al termine della loro vita, per esempio. Sì, quello, diciamo, è per necessità, o mi sono sentito di affrontare questo tema che nessuno affrontava, perché poi come figura professionale mi veniva chiesto a me di fare la puntura. Però, come? Io, come dire, ho fatto magari nascere quel cane, l'ho aiutato a crescere, l'ho sostenuto in tutta la sua esperienza di relazione, e poi dopo ero io che mettevo fine alla sua vita. C'era, come dire, un non senso in tutto questo. Ma scusa, quindi posso azzardare a chiederti, tu non sei, mi sembra di capire, forse mi sbaglio, non sei d'accordo sul fatto di fare la famosa eutanasia al cane? No, non è questione di essere favorevole o contrario, io penso che ci possa essere di meglio, ecco, questo è. Grazie intanto della tua testimonianza, la chiacchierata con te, sicuramente per me molto molto interessante. Grazie infinite Stefano. Figurati, grazie a voi. Ciao Stefano. Ciao, ciao, ciao. Ma la mia Pippi calze lunghe. La Pippi. Ma tu veramente sognavi, quindi, ma hai conquistato anche con quella frase, mi ricordo molto bene. Ma io vivrei come Pippi calze lunghe. E invece una casa che... No, ma non è vero. Non è vero. Però tu pensa quanto è straordinario il rapporto con gli animali, pensa, e ci focalizziamo sempre su come cambiare la politica, l'economia, eccetera. Non ci rendiamo conto che se non ci guardiamo attorno e non annulliamo le differenze anche nei confronti degli animali, con compassione, allegria, via, come facciamo a risolvere i nostri problemi? Sì, infatti. Non è possibile. Non è un modo di dire, ragazzi, che ci ascoltate, è veramente così, è esattamente così. E proprio per questo a me ha colpito molto una persona che ho conosciuto grazie a te, Angelo, che si chiama Monica Varese. Varesi. Vabbè, Varesi adesso. Beh, Monica, parlo agli amici. Povera Monica. E con la quale volevo parlare un po' e farla conoscere a chi ci sta seguendo, perché fa un lavoro davvero particolare. Ciao, molto speciale. Ciao Monica, ci sei? Ci sono. Monica. Ciao a tutti. Senti, io sono rimasta molto, te l'ho già detto anche un sacco di volte, sono rimasta molto colpita dal lavoro meraviglioso che fai tu con i tuoi cani e con i pazienti. Ci spieghi dove lavori tu con i tuoi cani e che cosa consiste? Esatto, okay, cos'è sto lavoro? Okay. Allora, noi ci occupiamo di terapia assistita con animali. Dico noi perché io lavoro in team con i miei tre cani, che sono Miracle, Spirit e Darsa. Con loro opero in varie strutture ospedaliere, socio-assistenziali e scolastiche. Quindi ti fanno entrare addirittura in ospedale? Assolutamente sì, con Fantastico. Vari permessi, in alcune strutture più facile, in altre più difficile, però ci sono sicuramente riuscita, almeno in tutte le strutture per cui lavoro. Ma di preciso, faccio un esempio di che cosa consiste in modo pratico il tuo lavoro con il tuo team fantastico dei cani? Allora, io posso dirti in poche parole mi è molto difficile, perché il nostro lavoro ha un obiettivo finale, che è quello di migliorare la qualità della vita delle persone. Certo. A me piace dire che i miei cani fanno da ponte. Che cosa significa? Il malato, il disabile, chi soffre, è un soggetto che è da comprendere e da conoscere soprattutto. Si tratta di entrare in sintonia e in empatia con esso, cogliendo soprattutto il suo vissuto, le sue emozioni e i suoi bisogni. Sì. Io lavoro con malati terminali anche, lavoro anche con bambini. Quindi il cane è un po' un modo di fare breccia nel cuore di queste persone? Assolutamente sì, ed è proprio per questo che la sua presenza è importante, perché è da considerarsi addirittura determinante. Se non avessi cani, i miei soprattutto, non riuscirei a fare quello che sto facendo. Adesso ve lo spiego. È possibile stabilire un'atmosfera empatica con chi si ha di fronte attraverso lo sguardo, la comunicazione non verbale e attraverso una miriade di cose che attraverso il cane, attraverso proprio la comunicazione che i cani hanno, che è quella non verbale, ma è immensa, perché i cani sono molto, ma molto più di noi. Certo. Che cosa succede nel paziente o nell'utente o nel bambino? Che c'è una distrazione temporanea da se stessi. Quindi dal proprio problema? Esatto, quindi si arriva alla pura relazione e soprattutto alla pura emozione. Parliamo di malati terminali o di psichiatrici, sì, no? Sì. Dove i problemi sono veramente seri. Vi porto l'esempio di Massimo, l'ho visto giusto stamattina. Allora, Massimo l'ho conosciuto 2 anni fa, la medicina aveva deciso di isolarlo perché non poteva più fare nulla e hanno voluto fare questa cosa un po' per testarmi, no? Ma perché è un malato terminale? Allora no, Massimo è uno psichiatrico grave, non vedente, e all'epoca 2 anni fa non parlava zero, non comunicava. Se una persona si avvicinava a lui e gli diceva ciao Massimo, gli arrivava un cartone, quindi era anche violento. Quindi da un punto di vista medico non si riusciva a fare nulla. Irrecuperabile, assolutamente irrecuperabile. Io lo sto seguendo da 2 anni, l'ho visto anche stamattina. Non dico che Massimo sarà il futuro ingegnere della costruzione del Duomo di Milano, ma poco ci manca. Massimo viveva costantemente su una sedia con una radiolina in mano e dondolava tutto il giorno avanti e indietro con la radiolina in mano, nessuno poteva toglierla. Oggi Massimo la radiolina non sa più che cos'è, addirittura sa che il martedì io vado da loro, per cui già la mattina quando si sveglia alle 7 inizia a chiamare me, i miei cani, soprattutto Miracle, e c'è stato un cambiamento. Ma proprio Miracle? No, ma veramente, ma cioè, noi qua facciamo miracoli. Fantastico. Senti, ma come ti è venuto in mente? Cosa ti ha spinto a fare questo? Non è un mestiere, perché è una passione, credo, no? Sì, credo che sia una missione. missione. Esatto. La missione, io ho sempre desiderato aiutare il prossimo, io volevo, è da sempre che voglio lavorare con i malati terminali perché è un tema che mi sta molto a cuore. Quindi ho trovato, grazie all'amore che ho per gli animali, un tipo di comunicazione diverso. E ho pensato, io con la mia comunicazione non riesco a fare molto. Se consolare sì, certo, ma poco più avanti direi di no. Attraverso il cane mi è successo un giorno di 10 anni fa, non con questi cani ma con un altro cane che avevo, che ero in un supermercato qualsiasi a fare la spesa, e una signora, evidentemente malata perché aveva questo foulard in testa, quindi fatto chemioterapia, mi si avvicina, è molto triste, mi chiede se può carezzare il mio cane. Io ovviamente dico certo, mi siedo con lei, iniziamo a guardarci, non parlando, e lei, toccando il cane, ha cambiato completamente espressione, e per me è stata l'illuminazione, è stata la rivelazione. Ecco che cosa devo fare nella vita. Quindi ho abbandonato il mio lavoro di pittrice e ho iniziato a fare una formazione idonea a questo tipo di lavoro. Grazie per la tua testimonianza, è stata preziosissima. Grazie Monica, fantastica, ci vedremo presto. Okay, salutaci Miracle Spirit e Arta. Saluta, tutte femmine? No, Spirit è maschio. Ah, ecco, Spirit è maschio. Salutaceli tutti. Ciao, un abbraccio. Okay, grazie a voi. Ciao. No, ma vedi che facciamo bene ad avere anche Euphoria qui in compagnia oggi. Sì, cioè, sì. Dovete sapere, per chi ci ascolta, che abbiamo un cagnolino di quanto pesa Euphoria? 2 chili. Di 2 chili, il barboncino toy di Rosita qui con noi, che ci fa compagnia sul tavolone. Non abbaia, ma se avrà qualcosa da dire si farà sentire. Allora, non lasciateci assolutamente, perché appena ritorniamo da questo piccolo break, abbiamo innanzitutto break, una classifica, i 10 buoni motivi per vivere col cane. Ma soprattutto abbiamo la nostra rubrichetta, me l'ha detto tuo cugino. Mio cugino. Ma che ti ha detto mio cugino? Sentirete un po'. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Beh, fantastico. E questo è il piccolo scherzetto da parte della regia. Scherzetto cinese, perché dicono che sembriamo Sandra Raimondo. No, dicono che io sono Sandra Raimondo e te Sbirulino. Beh, certo, che è il figlio di Sandra Raimondo. Poveri Sandra e poveri Raimondo. Speriamo di essere degni. Allora, torniamo a bomba. Me l'ha detto mio cugino. Tuo cugino, bellissimo. Tuo cugino, me l'ha detto cugino. Mio cugino ancora non dice meglio. Certe scemenze. Allora, è vero che per educare un povero cucciolo a non fare la pipì o la popò in casa bisogna schiaffargli il muso nella pipì ancora e picchiarlo? Ancora sta cosa, il muso nella pipì per insegnare al cane a non far pipì in casa, ma che vecchitudine, ma si usava, non so, 50 anni fa sta cosa, assolutamente non è vero. Non solo che è vecchitudine. È una cuginata coi fiocchi. Mm. Quindi invece cosa bisogna fare? Beh, innanzitutto se si tratta di un cucciolo, questo qui avrà bisogno di fare pipì sempre, perché la maggior parte della gente la prende come un dispetto, quindi la prendono lì e dici guarda adesso ti metto il muso nella pipì. No, non funziona in questo modo. Esatto. Devi portarlo fuori spesso. La regola numero uno per insegnare ad un cucciolo a sporcare fuori casa è cercare di prevenire quando la sta per fare, quindi a ogni cambio di attività, dopo che ha mangiato, dopo che ha bevuto, dopo che ha giocato, dopo, quando ha finito di dormire, quindi quando si sveglia, e lo si porta nel punto in cui deve fare la pipì. Io che sono Carletto, la faccia capisci? Per fare un dispetto, che bello scherzo. Difatti non ci sono dispetti, i cani non fanno non dispetti. Non fanno dispetti. I cani non sono capiti. C'è uno slogan fantastico che dice: un cane che non ascolta è un cane che non è ascoltato. Ma di chi è questa frase? Di certo Vaira. Ci sono tanto di t-shirt e di cose. Sto facendo pubblicità occulta. Comunque è vero, come i bambini, che poi non come dimentichiamoci bambini, mai che tutto quello di cui noi parliamo in rapporto col cane vale esattamente uguale anche con i figli, con un figlio, con un amico, con una sorella, con un fidanzato. Vado a cuccia allora. Vai a cuccia. Passiamo a quest'altra, alla nostra classifica. Oggi si parla dei 10 buoni motivi per vivere con un cane. Abbiamo trovato, insomma, ce ne sarebbero anche più di 10 volendo. Guarda, sì, ce ne sono tantissimi, però questa classifica che troviamo sul sito greenme.it è molto interessante, l'ho trovata, la sottolineo, la sottoscrivo. Allora, il primo punto riguarda il cuore. Avere un cane fa bene al cuore, aiutano a ridurre il rischio di malattie cardiache e a mantenere una buona salute, questo è confermato dall'American Heart Association. Sì, è importante dire che questi punti, insomma, si riferiscono a degli studi, no? Delle ricerche. Il secondo punto è la pet therapy, ne abbiamo parlato con Monica Varesi. Esatto. Quindi in particolare gli ospedali dell'Emilia Romagna ci tengono molto a questo, ma in tutta Italia ormai si fa pet therapy. E hanno ragione, bisognerebbe aprire di più le porte ai cani e ai gatti in modo che possano fare visite ai loro migliori, ai malati e ai bambini, ai malati in ospedale, sì, perché questo aiuta. E gli ospedali lo stanno già facendo, negli ospedali oggi entrano i cani e gli animali. Il terzo punto mi fa impazzire, perché tante volte uno pensa che portandosi un animale in casa peggiori la salute. E invece no. È l'esatto contrario. Cos'è che dice questo terzo punto? Questo terzo punto dice che per prevenire questi disagi decidono di eliminare la presenza di animali domestici. Invece no, perché secondo uno studio del Department of Public Health Science dell'Henry Ford Hospital di Detroit negli Stati Uniti, avere in casa un animale domestico non è affatto un pericolo. Sembra addirittura che il rischio di contrarre allergie sia addirittura inferiore se si entra in contatto con un animale. Quindi, finalmente, chi vive con gli animali, cani e gatti, diminuisce il rischio di avere allergia e poi obesità. Cioè, esatto, avere un cane fa bene. Quarto questo punto, punto ti fa dimagrire, perché portandoli a passeggio non si fa una vita sedentaria e il bambino poi socializza anche di più. Quinto punto, autismo. Questo è un punto molto particolare, però mi sembra che sia qualcosa che, ecco, riguarda la diminuzione dei livelli di cortisolo, che sono un ormone legato allo stress. Quindi nei bambini autistici la presenza di animali diminuisce il cortisolo e quindi permette una facilità alla loro vita, insomma. Sesto punto, longevità. È uno dei segreti per vivere meglio e più a lungo. La longevità avrebbe molto più a che fare con la felicità piuttosto che con la ricchezza o la posizione sociale, diciamolo, insomma. Bellissimo. Fantastico. Cioè, vivi più a lungo se sei più felice, non, esatto, se guadagni, non se di sei più ricco, anche perché da che mondo è mondo, i ricchi, io così felici e sereni non li ho mai visti, anzi ce l'hanno sempre, se stanno sempre a lamentare non sono mai contenti di niente, non si accontentano mai. Settimo punto, settimo che adesso punto, c'è da dire, devo fare un appunto sul settimo, devi fare un appunto. Amore, un cane rende più attraenti, facilita gli incontri con nuovi potenziali partner. Ecco perché tu tutti i giorni vai su e giù, dici 2 ore, 4 ore al parco, passeggiata. Ma uno deve uscire col cane, ti sei preso la responsabilità di un cane ha bisogno di uscire e portarlo fuori. Però effettivamente, secondo questo studio, sembra che chi vive con un cane, il cane rende più attraente, cioè facilita. Ma poi sai cosa si dice anche per gli anziani, per esempio? Il cane è un lubrificante sociale, cioè ti permette di entrare in contatto socialmente con le persone. Vabbè, non mi soffermo su alcune cose perché non siamo alla Zanzara, ma questo è un altro programma. Ottavo punto, comunicazione. I cani aiutano ad apprezzare la felicità che nasce dalle piccole cose, a riscoprire modalità più semplici di interazione, di comunicazione con gli altri. Si parla di comunicazione non verbale o addirittura preverbale, cioè quando una persona deve comunicare con un cane lo deve leggere, non può star lì a parlarci. I cani sono più attenti a quello che noi, esatto, facciamo piuttosto che a quello che diciamo, e quindi quando diventi più attento a questo tipo di comunicazione diventi più bravo anche a comunicare con gli altri esseri umani. Eccoci, ecco perché tu comunichi bene. Nono punto, la solitudine. La compagnia dei cani è d'aiuto per tutti nel contrastare la solitudine e nel prevenire la depressione. Fantastico. Decimo punto è lo stress. Vivere con il cane diminuisce lo stress. Secondo uno studio condotto da Karen Walker, professoressa di psicologia all'Università di Buffalo, quando viviamo con i cani gli ormoni dello stress si abbassano notevolmente. Prima parlavamo del cortisolo, appunto. Su questo effettivamente devo dirti che le persone che vivono con i cani appaiono meno stressate. Sì, parecchio meno. Senti, bellissima questa classifica. Adesso volevamo dare consigliare due libri ai nostri ascoltatori, no? Yes! Ne avevamo già parlato prima di Stefano Catinelli, abbiamo consigliato un libro, ma Stefano ne ha scritto un altro molto interessante, Edizioni Macro, che si chiama Cosa mi vuoi dire? Bellissimo. Di bellissimo. Cosa parla? Parla di, soprattutto di emozioni, cioè è del motivo per cui i cani entrano nella nostra vita, quindi perfettamente in linea con la telefonata che abbiamo fatto. Edizioni Macro, Cosa mi vuoi dire di Stefano Catinelli. L'altro libro che consigliamo di Aldo La Spina è In forma con il cane, edizione De Vecchi. Alla fine abbiamo, vedi, giriamo sempre intorno alle stesse cose: tenersi in forma, allontanare lo stress, non avere allergie, imparare a comunicare, essere meno timidi, rimorchiare, diciamocelo. Perché alla fine... No, perché diciamocelo. No, ma perché poi, guarda, sei rimorchio. Poi adesso io non vorrei dire, ma il tuo cagnolino è pure disabile, va in giro il carrellino, rimorchi pure il doppio adesso. Ma non è soltanto quello, il fatto che diminuisce lo stress rende le persone più belle, la felicità rende belli, ecco perché giusto appunto, io sono bella appunto, abbastanza, abbastanza. Chiedimi se sono bella. Tu devi chiedere a me se tu sei bellissima, amore mio. Chiedimi se sono bella. Chiedimi se sono felice. Sei felice? Felicissima. Ragazzi, anche per oggi abbiamo passato questa giornata assieme. Spero ciao, di euforia. Guarda, mi sta leccando me il microfono, bellissimo. C'è intanto il nostro cagnolino che ci sta passeggiando sul bancone. Speriamo di esservi stati utili, di avervi dato delle chicche, di avervi fatto scoprire delle cose che magari avete sotto gli occhi e non notavate più, perché è capitato anche a me. Ciao euforia, ancora vedi. Angelo intanto sta pomiciando col mio cane. Allora, buone vacanze a tutti da Rosetta Celentano e da Angelo Vaira. Scriveteci, chiedimi se sono felice @radio24.it. Ciao. Ciao.